Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, la trasmissione, mentre la sigla è Retribution dei Behind Enemy Lines e questa appunto trasmissione è completamente in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E ora andiamo invece con la presentazione, andremo avanti fino alle ore 21.30 e comunque andiamo con la presentazione del prossimo brano che ascoltiamo, che è una band più volte passata in questa trasmissione, ovvero i Kalashnikov Collective di Milano, ma ora da un loro mini album completamente di cover a livello internazionale. Abbiamo estrapolato questo brano di una band greca E comunque questo loro mini album uscito nel 2017 si chiama Mamma Anarchia, Kalashnikov Collective. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Verdings Magnetics. Allora, oggi così abbiamo pensato di iniziare i contributi politici, diciamo, rimbalzando una trasmissione di Radio Blackout, e nel corso della quale un compagno proprio da Exarchia narra in maniera veramente molto incisiva e approfondita, è molto interessante, e cosa sta succedendo in quel quartiere ribelle, rivoluzionario da sempre di Atene. E allora ci parla di questo ultimo attacco, diciamo, repressivo, e con il pretesto di della costruzione di una fermata della metropolitana nel quartiere, appunto, di Exarchia. E lo Stato greco ha militarizzato in maniera molto così intensa quella zona, e ci sono, appunto, presidi di polizia e di militari 24 ore al giorno, cosa che rende la vita sempre più difficile per gli abitanti e per i frequentanti di quel quartiere. E questo fatto, diciamo, che si è sviluppato in maniera più forte a partire dal mese di agosto di quest'estate, si unisce però a tutta una serie di altre cose, insomma, che di altre azioni di attacco da parte della repressione di Stato verso così le istanze rivoluzionarie che in quella zona lì insistono. E si pensi alla gentrificazione che è iniziata, insomma, un bel po' di tempo fa, e per cui questa operazione, per cui, per dire, lo dirà poi meglio il compagno, più della metà delle case del quartiere sono trasformate in Airbnb, quindi dedicate al turismo, diciamo, quindi una snaturalizzazione del quartiere, anche una cacciata a causa poi dell'aumento dei costi della vita per gli abitanti, e quindi una specie di colonizzazione, diciamo, che lo Stato mette in atto contro le persone che si ribellano allo stato di cose. E ricordiamo che Exarchia, appunto, è stata il fulcro della lotta già nel 73 contro il regime dei colonnelli. Lì c'è il Politecnico, che era, appunto, l'università che dalla quale, insomma, sono partite le rivolte, le forti rivolte contro il regime dei colonnelli. E poi tra l'altro l'anniversario, diciamo, di questa lotta degli studenti contro i militari si ricorda ogni anno, è un momento importante, insomma, ogni anno viene ricordato nel quartiere con cortei di migliaia di persone. E poi ricordiamo, appunto, tutte le lotte contro la troica, insomma, contro la crisi economica fatta pagare, come sempre, alle proletarie e ai proletari. Ricordiamo il fatto di sangue, di cui parlava anche la canzone dei Kalashnikov, l'uccisione di Alexis nel 2008, e in seguito alla quale ci furono, appunto, rivolte anche lì molto, molto forti. Comunque c'è sempre, è un luogo dove la gente non si arrende, ed è importante perché la gente non si demoralizza anche nonostante la difficoltà delle lotte. Purtroppo è sempre così, non è semplice andare avanti, sopravvivere e in più anche lottare non solo per la propria vita, ma anche, insomma, per un cambiamento generale. È duro, ma è anche un segno di vitalità, e, appunto, è importante non arrendersi anche se è difficile, continuare, perché ogni alba potrebbe essere il momento giusto per la rivolta. E allora iniziamo con questo come introduzione, diciamo, a una iniziativa che organizzeremo a Udine, una iniziativa di solidarietà a David, un compagno anarchico di Milano che, appunto, è stato arrestato ad Atene e che è stato detenuto per un periodo là e ora ha subito l'estradizione perché colpito da un mandato di arresto europeo. Ne parleremo dopo in maniera più approfondita, abbiamo già parlato di questa faccenda in altre puntate, ma comunque diamo la parola quindi al compagno da Exarchia. Allora, eccoci qui in questa diretta in differita dalla Grecia. Dovremmo essere in collegamento telefonico con un compagno da Exarchia, da Atene. Se ci sente, ciao, ci senti? Ciao, ciao, ciao. Benissimo. E allora, appunto, ringraziamo il compagno per la disponibilità e per tempo. Come dicevamo, quindi una diretta che ci va a raccontare quello che sono stati gli avvenimenti, diciamo, di quest'estate ad Exarchia, quartiere, insomma, che sicuramente in molti e molte conoscono, quartiere simbolo di Atene, ma una nuova minaccia, se vogliamo, di repressione, di cambiamento urbano, appunto, minaccia il quartiere di Exarchia. Quindi ci racconta tutto il compagno. Quindi, se vogliamo partire da raccontarci brevemente che cosa è successo, diciamo, durante agosto, durante quest'estate nel quartiere di Exarchia. Allora, partiamo dai fatti avvenuti alla mattinata, all'alba del 9 agosto, quando lo Stato greco ha messo in campo nella piazza del quartiere di Exarchia il suo progetto già dichiarato, già annunciato da molto tempo, ovvero chiudere con forze di polizia di vario genere, di tutti i tipi, la piazza per poter in pratica far diventare la piazza uno dei pochi posti rimasti di verde con alberi in una città di cemento, per costruire per mettere il cantiere di costruzione di una stazione della linea 4 della nuova linea della metropolitana qui ad Atene che sta costruendo. Vale la pena ricordare brevemente un po' più in generale la situazione, nel senso che questo progetto, il progetto di costruzione della stazione proprio nella piazza, parte da diversi anni, è stato votato e timbrato, diciamo, dalla società privata che sta costruendo questa linea con lo Stato già dai tempi del governo di Siriza, anche se adesso, come solito fare da parte di Siriza, in una maniera ipocrita, finge di essere contro questo progetto. E ora, dal 9 agosto in poi, il governo di neoliberista di estrema destra di Nuova Democrazia, ha messo in pratica questo progetto, facendo diventare tutto il quartiere in una zona occupata da polizia 24 ore su 24. Facendo diventare in pratica la vita invivibile per abitanti, lavoratori e la gente che frequenta il quartiere. Questo progetto trova grande dissenso, espresso in vari modi, in diverse manifestazioni e iniziative. Sia del coordinamento per la difesa di Exarchia, ma anche da diversi gruppi politici e sociali, e in vari modi. Una manifestazione molto recente, quella del venerdì scorso, quando oramai era passato già il primo mese di questa situazione invivibile, ha attraversato le strade del quartiere con una partecipazione di quasi 2.000 persone. Un corteo che quando è arrivato vicino alla piazza ha trovato quello che si trova in ogni giorno oramai, ovvero polizia, cariche e repressione. Sono stati diversi fermi e tre di loro sono diventati arresti. Questa repressione non era l'unica, sono recenti fatti e quotidiani di repressione, una caratteristica è la testimonianza che è uscita da una donna che la sera stessa del venerdì, dopo il corteo, quando si è recata per prendere il suo motorino vicino nella piazza, è stata in pratica minacciata e pestata dentro al cantiere dalle forze poliziesche, e quando con le reazioni di passanti e abitanti l'hanno lasciata libera per andare via, ha scoperto che le mancavano 100 euro dalla sua borsa. Questo lo dico giusto per fare chiara la situazione che si vive qui. Sono oramai quotidiani gli episodi di violenza poliziesca ingiustificata e gratuita, sono numerose le volte, come per esempio a luglio scorso, quando hanno caricato a freddo una manifestazione femminista. Sono numerose le volte che hanno fatto irruzioni in locali terrorizzando e arrestando, però è importante da dire anche che al contrario da quando stanno l'immagine che stanno costruendo nei media di regime, ovvero che quelli che sono contro questa opera sono alcune decine che sono contro in generale la metropolitana, ogni opera pubblica eccetera, e la verità è che l'opposizione, la resistenza contro questa opera non ha a che fare con la costruzione di una stazione metropolitana. Come sappiamo tutti, i mezzi pubblici vengono usati da gente povera, i lavoratori eccetera, però è una resistenza contro la distruzione di una piazza che è da decenni punto di riferimento per la zona, punto di ritrovo, punto verde, e non quindi contro proprio questo scempio nel quartiere, che ha anche un carattere proprio di vendetta da un governo che non può scordare il carattere di lotta di questo quartiere. Dobbiamo ricordare che Exarchia è la zona da dove sono iniziate le due rivolte più recenti della storia greca, quella al vicino Politecnico, che anche questo oramai chiuso da diversi mesi oramai, nel 1973 questa rivolta, e poi quella più recente del dicembre 2008, quando un assassino in divisa ha sparato a freddo, certo, il nostro compagno e fratello Alexandro Grigoropoulos. Quindi questo attacco al quartiere ha un senso di vendetta contro tutto il movimento, contro tutti e tutte che lottano e resistono in questa città. Ha anche però altre funzioni e si collegano anche con tutto quello che vediamo già da anni qui in zona. Ecco, in infatti pratica, scusa, ti interrompo solo. Ti interrompo solo perché hai fatto, insomma, hai dipinto benissimo il panorama spiegando bene come la volontà di costruzione di questa fermata della metropolitana, più che un'esigenza di trasporto, sembra appunto una precisa scelta politica, no? Per punire in qualche modo, anche in modo simbolico, il quartiere di Exarchia. Però, come forse stavi anticipando tu, il quartiere stesso è oggetto di una trasformazione in qualche modo, forse sociale, economica, comunque soggetto di gentrificazione già da un po' di tempo, no? Quindi insomma arriva al termine di forse un decennio, forse di più, su questo raccontaci meglio tu. E quindi questa è la seconda domanda, è come risponde Exarchia oggi, diciamo, a questo progetto, in parte ce l'hai raccontato, ma secondo te quali sono le prospettive anche di Exarchia di ritornare a essere in forma un quartiere popolare vissuto da insomma, compagni attivisti, sì, e gente povera, invece la tendenza sembra che diventi sempre più un oggetto di speculazione immobiliare, no? Basta pensare, leggevo su un articolo che il 58% delle case di Exarchia è su Airbnb. Sì. Sì, questo penso che alla fine è il punto più importante da raccontare, nel senso che, diciamo, già dopo la rivolta del 2008, il progetto ad insurrezione dello Stato ha avuto per il quartiere varie funzioni e vari modi di esprimersi. Uno era, prima di tutto, di far confluire in piazza di Exarchia, e non solo in piazza, in generale nella zona, tutto lo spazio di sostanze stupefacenti, tutto il narcotraffico del centro di Atene. Questa funzione, questo progetto ha avuto già una resistenza da parte di compagni e compagne, di gruppi politici che capivano che questo è una funzione, un progetto per far cambiare questa zona da una zona, da un quartiere in lotta, in un quartiere di consumo di capitale legale o illegale. E poi, per quanto riguarda la gentrificazione, la riqualificazione, come la chiamano loro, già il fatto che molti gli affitti oramai in giro degli ultimi anni si sono duplicati, se non triplicati, una cosa che tra l'altro riguarda diverse zone del centro di Atene e non solo del centro, ma qui a Exarchia è proprio chiara la tensione tramite vari progetti, anche una propaganda un po' alternativa di far diventare il quartiere a una zona di consumo alternativo. Alternativa, certo, sì. Sì. Ha fatto sì che molti degli abitanti della zona, anche, diciamo, gente che viveva nella zona da decenni, si trova veramente in difficoltà adesso per poter sostenere affitti di questo genere. Parlo anche a livello personale, nel senso che è oramai molto difficile di poter, gli abitanti che abitano ancora, diciamo, nella zona, sono quelli o che hanno affitti da molti anni, quindi è un po' difficile per i proprietari di buttarli fuori, oppure gente che magari tradizionalmente aveva le case qui e sta ancora vivendo qui. Tutto l'altra, diciamo, tutta questa trasformazione che hai menzionato anche tu, si vede a livello quotidiano, nel senso che a parte il gran numero di Airbnb costruiti in questi anni, vediamo anche, diciamo, un cambiamento a livello, come si può dire, della gente che vive, che frequenta la zona, nel senso che, come diceva un compagno, piano piano stanno cercando almeno di far diventare Exarchia come Kolonaki. Kolonaki è la zona più alcuni metri lontano, neanche un chilometro lontano da Exarchia. Quindi direi che è una Exarchia adesso è un esempio di come il capitale, tramite il suo stato, cerca di far diventare ogni zona, ogni quartiere del centro, sicuramente di Atene, in una zona di consumo, in una zona dove i poveri, quelli più, diciamo, i strati più deboli sociali, non avranno più posto. Certo. Questo ha a che fare anche con le caratteristiche della nostra città, nel senso che Atene è una delle, almeno da quella, a mio avviso, e da quanto ho visto situazioni in altre città europee, ha questa caratteristica ancora, nel senso che il suo centro non è oramai svuotato da poveri immigrati proletari. Ci sono quartieri dove questa gente ancora vive e lavora. Quindi ha una duplice funzione tutto questo progetto, sia a livello vendicativo contro il movimento anarchico e non solo, ma sia di un sfruttamento economico. Ricordiamoci che Grecia è uno, la sua industria più pesante, come dichiarano loro, è il turismo. Mm-hmm. E Atene, essendo la capitale di uno stato con queste caratteristiche, vive anche questi pesanti cambiamenti come risultato di questa situazione. Vale la pena ricordare anche che, oltre lo scempio contro la piazza e contro il Politecnico, da oramai da mesi sta in atto anche un attacco, in pratica una privatizzazione da parte del comune di Atene, dal suo sindaco, che è un parente del primo ministro Mitsotakis. Sì, Nikos Mbokogiannis, no? Che è nipote di Mitsotakis, no? Esatto, sì. In pratica cerca di privatizzare la collina di Strefis. La collina di Strefis è proprio nella zona di Exarchia, proprio al centro di Atene, una dei pochi posti rimasti verdi in questa città, e da mesi che cercano di far privatizzare, di regalare in pratica tutta la collina a una società privata chiamata Prodea. Ora, per quanto riguarda le prospettive e le resistenze che sono espresse finora e sicuramente continueranno, qua le iniziative sono quotidiane e hanno vari caratteri, anche azione di rete, anche volantinaggi, anche interventi di vario genere in varie iniziative, anche cortei. Si capisce che sarà una lotta che durerà, sarà difficile e dura, perché si capisce anche che almeno fino alle prossime elezioni, ovvero fino, da quando si capisce, saranno verso la primavera prossima, il governo ha come punto per eccellenza questo suo progetto, come una pubblicità in tutto il paese del suo, quello che chiamano loro come dottrina di legge e ordine. Mm-hmm. Ovvero cambiando Exarchia, cercano di cambiare tutto il paese una volta per tutte, però comunque siamo ottimisti, sempre dobbiamo essere ottimisti secondo me, perché almeno da quello che si vede a livello pratico, nelle strade e a livello di azioni, la gente che non ha intenzioni di lasciare non solo il quartiere fisicamente, ma lasciare proprio tutta la storia che rappresenta questo quartiere nelle mani degli sbirri, dei ministri, dei sindaci e dei loro giornalisti, non è molta. Voglio dire, la partecipazione ha caratteri di massa, le azioni che vengono fatte hanno una continuità e provengono da diverse forze, lo dobbiamo dire anche questo, non solo anarchici, autonomi, comunisti, anche gente che capisce che questa trasformazione del quartiere, che ha come punto di diamante, diciamo come punto per eccellenza, la distruzione della piazza tramite la costruzione, tramite questo cantiere adesso che viene presidiato 24 ore su 24 dall'accelere, non solo, tutto questo crea tensioni continue, iniziative continue, e speriamo che alla fine, come anche in passato, in diverse situazioni, di lotta, che tutto sembrava molto difficile e molto, diciamo, e il futuro molto pessimista, mm-hmm. Si è potuto cambiare la situazione e decidere alla fine di mettere fine in vari modi in questa situazione invivibile che adesso stiamo vivendo. Bene, ok, sei stato molto chiaro, anche insomma bello sentire parole di speranza rispetto a questa lotta che, come hai detto bene tu, rappresenta molto il simbolo, no? Anche la volontà del governo di Mitsotakis proprio di imprimere un segno molto forte del proprio governo ultraliberale, di ultradestra, in questo caso l'exarchia, ma è un simbolo, diciamo, proprio di come e di quanto appunto il governo voglia in qualche modo reprimere ogni forma di dissenso. Un'ultima domanda molto veloce: hai parlato di 3 arresti nelle scorse al termine delle scorse manifestazioni, sono ancora in carcere questi compagni e compagne? Per dirti la verità, se non sbaglio, sono a piede libero, sono arrestati alla manifestazione di venerdì scorso, però dobbiamo dire che da 9 agosto in poi sono diversi i compagni e le compagne e gli abitanti della zona che per vari motivi, anche futili oppure senza nessuna giustificazione, sono trovati arrestati, magari perché perché così vuole la Celere che sta qua in piazza ogni giorno, voglio dire. Sì, cercano qualsiasi motivo per reprimere, per arrestare, insomma. Esatto, e per fare terrorizzare magari anche la gente, però speriamo che non riusciranno, e dobbiamo anche dire, a livello proprio di quello che dicevi prima di speranza, che non solo qui a Exarchia, adesso sono in atto lotte molto importanti secondo me, come per esempio uno sciopero molto duro e lungo di lavoratori alla fabbrica di Malamattina a Salonico, come anche molto importante la lotta che stanno dando gli studenti e le studentesse delle università, con i lavoratori delle università, contro un altro punto per eccellenza di questa politica di legge e ordine, che vuole far entrare nelle università una polizia universitaria, e oramai sono da diversi giorni che cercano di far entrare questi corpi neonati, appena nati nei vari atenei, però senza poter riuscire, visto che trovano contro centinaia, migliaia di studenti, studentesse, lavoratori delle università e solidali, che gli impediscono questa entrata che puzza molto di dittatura e di tempi di colonnelli. Certo. Sì, ricordiamo per chi ci ascolta l'importanza di questo passaggio, perché dal 1973, dalle rivolte del Politecnico, poi in seguito fu emanata una legge, no, che vietava l'ingresso delle forze di polizia nelle strutture universitarie. Tale legge è stata, questa protezione, tra virgolette, è stata poi cancellata dal governo della democrazia, ed è un fatto molto molto rilevante anche questo, no? Esatto, sì. E adesso, diciamo, con questo corpo di polizia di università, come la chiamano, vogliono non solo dare la possibilità alla polizia di entrare a qualsiasi momento negli atenei, ma vogliono far entrare proprio un corpo poliziesco alla vita dei vari atenei, ovvero di avere proprio, per farsi capire, di avere proprio commissariati dentro alle università. Ok. Tremendo. Beh, insomma, speriamo che ci sia anche appunto nell'università una forma di, insomma, di contrasto, di protesta rispetto a questa prospettiva. Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo, ci hai raccontato un sacco di cose, e che dire, un abbraccio solidale da Radio Blackout. Speriamo che appunto queste proteste e queste forme, insomma, di solidarietà, di protesta continuino e che siano speranzose e vittoriose. E ci risentiamo a presto, insomma, per continuare a seguire come vanno avanti le cose ad Atene e a Exarchia. Bene, bene, un saluto da Atene a Torino e in tutta Italia a tutti i compagni e le compagne, e a presto. Grazie molte. Ciao. We'll be right back. Sì, allora siamo sempre su Zardins Magnetics, programma condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Siamo ospiti appunto di Radio Onde Furlane a Udine e approfitto anche per dare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori che magari ci seguono da radiazione, perché appunto da questa settimana, il venerdì pomeriggio, è possibile ascoltare la trasmissione anche su Radiazione, Radio di Padova. Allora, abbiamo ascoltato questa lunga e interessante intervista a un compagno sulla situazione di Exarchia ad Atene. Appunto era un rimbalzo da Radio Blackout. Questo serviva come introduzione, diciamo, per presentare un'iniziativa che come Assemblea Anticarceraria organizziamo a Udine domani, che è venerdì 23 settembre, a partire dalle ore 19:30 presso lo spazio autogestito di Via De Rubeis. Allora, si tratta di un'iniziativa solidale con il compagno David, compagno anarchico di Milano, appunto arrestato in Grecia il luglio scorso e insomma ora è detenuto al carcere di Civitavecchia, è stato estradato dalla Grecia. E allora la serata si svolgerà così: abbiamo pensato di proporre la proiezione di un filmato che si intitola Filaki, che significa carcere. È un filmato diciamo storico, perché sulle lotte carcerarie in quel paese fino al 2007, e fa comunque un ragionamento generale, diciamo, sulle lotte carcerarie. E poi vabbè, discuteremo un po' della situazione di David e non solo sua, e ci sarà un buffet benefit per le spese giudiziarie. Allora, già lo scorso giovedì avevamo parlato con una compagna di Milano della situazione di Vincenzo Vecchi. Vincenzo e David sono, diciamo, accomunati da questa sorte, cioè sono colpiti dal mandato di arresto europeo. Vincenzo si trova in Francia ed è libero, perché appunto la resistenza contro questa estradizione, la resistenza delle persone proprio che abitano i luoghi dove abita anche lui, e ha fatto sì che, insomma, ci fossero tutta una serie di intoppi per mettere in atto questa estradizione. E anche David, appunto, ha subito questa estradizione in base a questo mandato di arresto europeo. Come si diceva anche lo scorso giovedì con la compagna, si tratta di una sorta, viene definito come una sorta di macchina da guerra giudiziaria. Come anche però una macchina da guerra giudiziaria è il reato per il quale sia David che Vincenzo vengono inquisiti e perseguitati, e cioè il reato di devastazione e saccheggio. E nel caso di David si parla del 15 ottobre 2011, quindi la rivolta, diciamo, di Piazza dell'Indignados, vi ricorderete, chi ha qualche anno, insomma, durante la quale ci sono stati, cioè era una piazza molto calda, diciamo, ci sono stati vari scontri con le forze dell'ordine e è stato anche assaltato un mezzo dei carabinieri, sì, a Roma, la città era Roma. Quindi dopo 11 anni, perché appunto era il 15 ottobre 2011, arriva la condanna a David per, non solo a lui, ma tra gli altri anche a lui, per devastazione e saccheggio. E in quel momento David si trovava appunto in Grecia. In Grecia non esiste questo capo di imputazione, insomma, come peraltro in Francia non esiste, quindi in teoria la faccenda dell'estradizione non dovrebbe porsi, se non che appunto diciamo che questo strumento che è il MAE, il mandato di arresto europeo, che è stato introdotto nel 2004 è uno strumento che serve alle polizie internazionali per praticamente spianare la strada verso la riconsegna rapida e frettolosa tra paesi alleati di soggetti che sono, diciamo, considerati pericolosi per l'ordine costituito. E quindi, insomma, è una cosa grave che sta colpendo, appunto, compagni e compagni, le persone più combattive, quelle che meno si piegano, meno si arrendono. E allora, appunto, dicevo, domani ricordo, dalle 19:30 faremo questa serata così di discussione e anche di socialità, solidale con David per sostenerlo nelle spese giudiziarie. Ricordo anche che domenica 25, quindi la prossima domenica, ci sarà proprio fuori dal carcere di Civitavecchia un presidio solidale con David a partire dalle ore 11, quindi chi ha la possibilità di andare ci andrà. Allora, mentre sta andando questo brano musicale, che ricordo sono i NIS, che è l'acronimo di Nevrosi Irreversibile del Sistema, e questa band è di Foggia e comunque sono prese da questo 7 pollici, che loro, uno split, che questo lato loro si chiama Specie di Scarto. Ma volevo anche dire che prima, prima dell'intervento avevamo ascoltato gli Humus, che è una band di Ancona, che fanno parte di questo split, appunto, assieme ai NIS, e il lato di questi Humus è Senza Coscienza. Quindi lasciamo andare ancora questo brano dei NIS e poi presenteremo un'altra band. We'll be right back. Bene, questi sono i NIS, band foggiana, NIS che è l'acronimo di Nevrosi Irreversibile del Sistema, e fanno parte di questo split 7 pollici, è uscito nel 2009 assieme agli Humus. Ma ora invece andiamo all'ascolto di questo CD, insomma, vabbè, non è che lo ascoltiamo tutto ovviamente, ma andiamo all'ascolto di questa band che tra l'altro è da un po' così sulle scene qua locali udinesi, ma credo questa è la prima volta che li trasmettiamo qui in questo programma che è Zardins Magnetics, in diretta ogni giovedì da Radio Onde Furlane. Loro sono i Fanteria di Prima Linea e questo brano che ascoltiamo si chiama Udine in Fiamme. Ma anche così la curiosità, insomma, curiosità, il fatto che noi questo brano lo estrapoliamo da un CD che si chiama Bootleg, The Bootleg, ma che è praticamente la registrazione di un concerto che è avvenuto il 25 aprile di quest'anno a Pordenone, e che l'iniziativa si chiamava The Grave Complotto, ma più che altro proprio The Grave, come c'è scritto, in realtà è proprio quella, la Grave, che è questa zona della Pordenone Alta, e c'è stato questo concerto all'aperto, come ho detto, il 25 aprile. Hanno partecipato 8 band, tutte diciamo qua friulane, a parte una veneta, ovvero gli Obos. Ma noi, come ho detto, da questo CD completamente autoprodotto, in tiratura di ben 50 copie, noi ci ascoltiamo questi Fanteria di Prima Linea da Udine. mille scaccati la tempia. Sì, e veniamo a parlare di una iniziativa invece che si è svolta ieri, appunto. Ieri, mercoledì 21 settembre, il coordinamento No Green Pass di Trieste è tornato in piazza contro guerra e devastazione economica. Appunto, lo striscione che apriva il corteo recitava: guerra e pandemia, stessa strategia. E si intende stessa strategia di controllo autoritario. E vabbè, hanno partecipato alla manifestazione un migliaio circa di persone. Chiaramente la questura dice 350, ma si sa che tende a dividere per tre le presenze. E il corteo è stato molto lungo, quasi tre ore, insomma, di manifestazione. E come sempre molto vivace, molto battuta, non smorta minimamente, con tantissimi interventi molto diversi anche uno dall'altro, di analisi ma anche di suggestioni varie. E allora il coordinamento No Green Pass, appunto, ha deciso di tornare in piazza, anche se il momento storico, diciamo, e i numeri non sono più quelli delle 15.000 presenze, ma di tornare in piazza per continuare questo percorso, insomma, che comunque non si arrende, anche un percorso, insomma, che ci si auguri sia lungo e nel senso che tenga duro, e contro, appunto, la gestione autoritaria della pandemia, che viene vista anche come una sorta di guerra ai popoli, in quanto e porta alla negazione di diritti collettivi e individuali, e contro i ricatti sul lavoro, che sono quelli dovuti al famigerato Green Pass, ma sappiamo che, insomma, non è passata la cosa, perché anche, ad esempio, le persone che lavorano nella sanità subiscono l'obbligo vaccinale tuttora. E appunto in manifestazione si è parlato di tante cose, anche dei processi di ristrutturazione economica, dell'ossessiva digitalizzazione, che viene presentata come la soluzione per ogni problema, che invece si configura come una, diciamo, rapina di dati personali in generali per fare profitto da parte dell'ordine capitalista. E si è discusso di questo fatto, che come per la gestione della pandemia, anche per la guerra, si sta assistendo a questa campagna mediatica ossessiva volta a stroncare qualsiasi forma di dissenso, e quindi contro questo bisogna ribellarsi. E poi si è parlato anche di antimilitarismo, e non dobbiamo dimenticarci che incombe, diciamo, questo incubo della guerra. Si parla apertamente, cioè parlano apertamente di terza guerra mondiale, e la prospettiva è quella nucleare, quindi, insomma, non è la situazione è molto pesante, molto grave. c'è stato, insomma, ci sono stati molti interventi contro l'invio delle armi in generale, non solo in Ucraina, ma in ogni luogo dove ci sono guerre. Si sono ricordate, ad esempio, si è ricordata la Palestina, ma anche lo Yemen, luoghi dove continuamente ci sono eccidi che però vengono assolutamente dimenticati dai mezzi di informazione mainstream, ma anche non ci sono mobilitazioni politiche, diciamo, di Stato per questi popoli che vengono continuamente sterminati. Tra l'altro le armi che vengono fornite all'Arabia Saudita contro lo Yemen sono transitano anche per il porto di Trieste, vengono prodotte in Sardegna, poi comunque transitano anche attraverso il porto di Trieste. E quindi, dicevo, si è affermata la totale contrarietà all'invio di armi, ma non solo all'invio di armi, anche all'aumento delle spese militari. Ricordiamo che sono arrivate a 35 miliardi di euro, ma ne promettono ulteriori 5.000, quindi promettono di arrivare i governanti tra 2 anni a 40 miliardi di euro. Si è parlato anche della contrarietà della lotta contro i laboratori microbiologici per la produzione di virus ingegnerizzati e letali a uso bellico, che producono profitti esagerati a spese della salute collettiva. Tra l'altro, non dimentichiamoci che il discorso dei virus chimera, insomma, anche relativamente al Covid, ne abbiamo parlato, ma va ricordato che anche a questo proposito si è parlato di virus chimera prodotti appunto in laboratori a scopo bellico. E specificamente sul territorio di Trieste, rispetto al territorio di Trieste, si è parlato del ICIGEB, che è questo Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia, che è stato fatto praticamente, gode di immunità, diciamo, per legge, relativamente al territorio specifico di Trieste, ma anche allo Stato, cioè va oltre la giurisdizione, diciamo, le leggi statali, e nel senso che chi lavora lì dentro e produce quindi non si sa cosa, lo fa tenendo all'oscuro praticamente la popolazione e non correndo nessun rischio, insomma, gode appunto di immunità. E anche questa è una cosa, perché appunto l'industria che è collegata con la guerra gode di questa immunità giuridica. Quindi si è parlato della contrarietà e dell'importanza della lotta contro la produzione di materiale bellico nelle aziende locali. Si sono ricordate la Fincantieri di Trieste, che ha esportato centinaia di milioni di euro di materiale bellico, si diceva già prima, verso l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti, per non parlare della Selex di Ronchi, dei legionari, che produce i droni a uso civile ma anche militare, Selex, che è del gruppo Leonardo. E poi si è parlato anche dei finanziamenti dell'Unicredit, la banca Unicredit, 1,5 miliardi l'anno che finanziano l'industria nucleare militare. E si è parlato anche della SIOT, ne abbiamo parlato anche qui per questo progetto deleterio in Carnia di impianti di immagazzinamento, insomma, di carburante. E appunto si è parlato di questa SIOT, che è un oleodotto transalpino, il più grande terminal petrolifero del Mediterraneo, e una persona, insomma, ha fatto un intervento relativo a questo impianto, che 50 anni fa aveva subito un attentato. E per dire che Trieste è, insomma, una città che potrebbe essere un obiettivo sensibile, quindi in caso di conflitto o comunque in caso di azione dimostrativa, diciamo, bellicosa, perché ci sono, è un luogo molto sensibile da questo punto di vista. E appunto gli organizzatori hanno anche parlato di smilitarizzazione del porto. Sì, tutte cose importanti. Hanno ricordato che c'è stata questa portaerei americana Truman, che era attraccata al porto di Trieste, che era controllata dai sottomarini russi. E vabbè, insomma, tra l'altro c'è stata contestazione anche per la presenza di questa portaerei. E poi si è parlato anche molto del lavoro della Wärtsilä, appunto, di questa, dando solidarietà ai lavoratori, ma di questo fatto delle ristrutturazioni industriali di guerra. Appunto, la Wärtsilä fabbrica di motori per navi, che però poi, insomma, alla fine addetta a produrre appunto per le navi militari, quindi, e che appunto viene trasferita in Finlandia proprio quando la Finlandia rientra nella NATO. E ci sono stati poi diversi interventi, anche sulla Palestina, importanti, ricordando appunto la Palestina, quello che succede continuamente in Palestina, ma anche la lotta contro l'oppressione dello Stato di Israele. E poi ci sono stati anche interventi, ad esempio, da Aviano, da vicino ad Aviano. C'è questo, io non sapevo, ad esempio, questo coordinamento che si chiama di Liberazione Nazionale, che è contro gli armamenti nucleari, è per praticamente lo smantellamento della base di Aviano, ma soprattutto per anche con metodi, diciamo, legalisti, nel senso che ci sono lettere al prefetto, ma comunque al di là di questo, insomma, ogni comitato coordinamento poi si organizza come crede, ma sono emerse diverse cose interessanti relativamente a quello che succede lì. Io, ad esempio, questa cosa non la sapevo: in caso di incidente nucleare, visto gli armamenti nucleari che ci sono ad Aviano, la contaminazione arriverebbe fino alla Polonia, è stato calcolato, perciò, per dire dove si è seduti, insomma, in quale polveriera si è seduti. Io forse mi sto perdendo adesso, ma era per dire che iniziative come questa di Trieste è stata molto importante. E anche qui mi viene da dire, c'era questo entusiasmo lungo il corteo e questo intento di non arrendersi, anche se non si è tantissimi, e di appunto combattere contro anche il carovita che ci stanno imponendo e che ci fanno passare come qualcosa che deve salvare la nostra vita, mentre deve salvare il culo praticamente, cioè il fatto di privarsi di tutto e di stringere i denti serve a salvare il culo ai potenti della terra, diciamo, agli stati, a quelli appunto che devastano e saccheggiano il pianeta e che continuano a farlo. E sicuramente ci saranno altri appuntamenti del coordinamento No Green Pass di Trieste. Plánu valí to milion let. Tohle je likvidace. We'll be right back. Bene, siamo quasi al termine di questa trasmissione, ma volevo ricordare che siamo all'ascolto di questa band della Repubblica Ceca, i Life Possession, dal loro 7 pollici datato 2014. Questa band comunque non dovrebbe esistere più, è una band che si è formata all'inizio del millennio e vabbè, comunque loro Life Possession. Allora, dato che siamo giunti al termine di questa trasmissione, anche prima di ricordarvi i contatti, ricordo un'iniziativa che si svolgerà domani, venerdì 23 settembre dalle 19.30 presso lo spazio autogestito di Via De Rubeis. Ci sarà un buffet benefit per David, compagno anarchico condannato per devastazione e saccheggio, prigioniero nel carcere di Civitavecchia dopo la sua estradizione dalla Grecia tramite il mandato di arresto europeo, appunto il MAE, ovvero questo mandato di arresto europeo che comunque abbiamo ben ascoltato prima durante l'intervento precedente. E quindi domani a Udine, vi ricordo nuovamente, 23 settembre, nello spazio autogestito di Via De Rubeis dalle 19.30. Bene, rimaniamo così ancora all'ascolto per questi Life Possession e poi ci salutiamo e vi ricordo i nostri contatti. Bene, sfumiamo questa band della Repubblica Ceca, i Life Possession, ricordarvi che siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che ogni giovedì va in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30. E adesso, prima così di salutarci definitivamente e ascoltare l'ultima band, vi ricordo i nostri contatti, che sono, allora, chi volesse scriverci in forma ovviamente direttamente, in forma elettronica sulla mail, potete intestare a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci direttamente col vecchio metodo cartaceo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ripeto tutti e due i contatti: posta elettronica liberetutti@autistiche.org oppure in forma cartacea Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre, chi volesse riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle precedenti a questo giovedì, può andare su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione. Vi lascio con un ultimo brano o due degli sloveni Aktivna Propaganda. Ciao a tutti. Keep on.